Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. E azione! Prima inquadratura, in movimento. Un uomo con un berretto scuro in testa e dei grandi occhiali dalla montatura scura cammina. L'espressione sul volto non bello è paciosa, ironica, come quella di un droghiere che la s'allunga, ma che ancora prova piacere ad affettare la mortadella e a chiacchierare con le signore dotate di retine e carrelli per la spesa. L'uomo è in visita al suo paese. Passeggia sotto i vecchi portici, saluta i passanti portandosi la mano verso il berretto, cammina con le mani intrecciate dietro la schiena. Ogni tanto alza lo sguardo verso le finestre in alto, quasi a voler cogliere qualcuno a spiarlo. E quando dalla torre civica, il simbolo del paese, sente rintoccare l'orologio, controlla al polso il suo. Giunto in piazza si incontra con un amico e insieme si incamminano lungo il viale Po. È una bella passeggiata. Ai lati della strada, gli alberi. Subito dopo, i campi coltivati. Tutto è quieto, bello. Arrivati alla banchina, il nostro uomo trova una barchetta ad aspettarlo. Al remo un uomo di fiume, le maniche di camicia arrotolate fino al gomito, in testa anche lui il cappello. La barca va silenziosamente verso l'acqua del grande fiume. Solo il rumore del remo che entra ed esce dall'acqua. È l'ora poco prima del tramonto. Gli uccelli sono come per un solo attimo in silenzio in attesa dello spettacolo del sole che con un triplo salto carpiato dalla banchina si tuffa nel Po. Ma le nuvole improvvise rovinano lo spettacolo e seccati tutti gli uccelli riprendono la loro chiassosa corsa nel cielo. Poco distante, un'altra barca si avvicina a quella del nostro uomo che gli chiede qualcosa in dialetto. Sono dei pescatori, le canne al loro fianco. Ehi, qui ci sono i cosi, ci sono gli anguilari. Gustina, il ciapà di Anguelink? Com'è? E perché? Ma però a fare io tutta sera al sul che... Questa scena esiste davvero. È un documentario del 1958. Il luogo è Luzzara, un piccolo paesino sulla riva destra del Po, al confine estremo della provincia di Reggio Emilia. Al di là del fiume, la provincia di Mantova, la Lombardia. L'uomo, con il berretto scuro che parla in dialetto con gli anguillari, viene da lì, anche se da molti anni ormai vive in altre città d'Italia. Ma non ha perso il gusto della sua terra, perché è da questi luoghi fecondi che ha tratto molta della sua ispirazione, quel flusso di idee, immagini, esperienze che ne hanno fatto uno degli scrittori e sceneggiatori più famosi del suo tempo. Il suo nome è Cesare Zavattini. Cesare Zavattini. Sul tavolo da lavoro ho pochi oggetti, il calamaio, la penna, alcuni fogli di carta, la mia fotografia. Che fronte spaziosa. Cosa mai diventerà questo bel giovane? Ministro? Re? Guardate il taglio severo della bocca, guardate gli occhi, quegli occhi pensosi che mi fissano. Talvolta provo una viva soggezione, dico, sono proprio io? Mi do un bacio sulle mani pensando che sono proprio io quel giovane e mi rimetto a lavorare con Lena per essere degno di lui. È l'incipit di Parliamo tanto di me, il primo libro di Cesare Zavattini, pubblicato nel 1931. Cosa mai diventerà questo bel giovane? Questo si chiede lo scrittore. È una domanda legittima, necessaria per tutti i giovani. Ma per Zavattini, per tutti Za, a 29 anni, è ancor meno una domanda oziosa. L'uomo sente in sé una spinta a fare, sovvertendo gli schemi, e fra gli infiniti stimoli della vita che lo incuriosiscono e lo divertono, c'è solo da scegliere, c'è solo da indirizzarsi. All'epoca della pubblicazione del libro per la casa editrice di Valentino Bompiani, Zavattini ha già cambiato molti lavori. Bibliotecario, istitutore, giornalista, scrittore di fumetti, redattore, scrittore. Ma sa che è solo l'inizio. C'è ancora molto nel mondo da scoprire. Tutto inizia proprio a Luzzara, il 20 settembre del 1902, quando nasce Cesare, il primo dei cinque fratelli Zavattini. La mamma e il babbo gestiscono un albergo-ristorante lì nei pressi. E quando nascono anche Tina, Mario, Angela e Angelo, si decide di mandare il maggiore alle elementari a Bergamo, ospite di una zia. Ce lo immaginiamo piccolo, giusto un soldo di cacio, con forse già in testa un berretto scuro e gli occhiali, andare tutte le mattine a scuola all'istituto Tassi, senza un fratello con cui fare la strada insieme, solo ma non triste, curioso com'è di tutto quello che gli succede intorno. Sono gli anni della crescita, delle scoperte, come quella dello spettacolo. Zavattini, seconda! E azione! Seconda inquadratura, fissa. Teatro Nuovo di Bergamo. Il cartellone affisso recita: grande spettacolo di trasformismo. Camaleonte, Fregoleide, Eldorado, l'unico, il meraviglioso Leopoldo Fregoli, l'inventore del fregolismo. Forse l'immagine è ancora quella di un cartellone famoso del grande trasformista, con su dipinto un lungo treno dove da ogni finestrino spunta un volto di Fregoli truccato in maniera sempre diversa. In platea ovunque luci, risate, applausi. Sul palco un susseguirsi di costumi, espressioni, voci, intenti. In pochi minuti tutto cambia, tutto si trasforma. Quello che c'era prima ora non c'è più e quello che deve arrivare in seguito non c'è ora. Tutto dura un attimo e in quell'attimo deve dare il suo meglio, deve colpire, irretire, soggiogare. È un concetto che si insinua nella mente di Cesare. Tutto si deve compiere in un lampo, in un istante, un pensiero veloce, un discorso che non c'è, una prosa che non annoia, una frase che dura come un flash. Cesare è inebriato. La testa gli gira per l'eccitazione e il piacere. Che meraviglia, che invenzione, che genialità! Ma Bati, Bati, per ogni nemico della strada! Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Sarei un maestro senza criterio. Se la volessi prendere sul serio, se raffreddata, le raccomando una sudata, le faccio un sermone e poi rimando a chissà quando la mia lezione. Col passare degli anni, i genitori di Zavattini si trasferiscono in Lazio per lavoro. Quando Cesare li raggiunge, prima viene messo in collegio a Roma, ma presto lo trasferiscono ad Alatri, al liceo Conti Gentili. Alatri è un vecchio paese, che ha le mura ciclopiche addirittura, e io ho passato lì 3 anni della mia vita estremamente interessanti, a mio modo. È il 1918, c'è ancora la guerra, e i giovani come Zavattini si entusiasmano. Il grande interrogativo è scegliere se essere interventisti, irredentisti, nazionalisti, qualsiasi cosa pur di dimostrare passione per le cose della vita, per le cose della patria. C'è da diventare grandi e da partire per il mondo, anche se questo mondo non va oltre il cortile di casa propria. Ad Alatri, forse perché la cittadina non è la sua, Zavattini si sente libero. Fuori dalle porte del paese c'è la ciociaria, le pecore, i campi. I contadini parlano una lingua buffa e c'è tanto da divertirsi. Sono tutti strani gli esseri umani se li si guarda con un occhio ben disposto. E quello di Cesare è un occhio tanto curioso, generoso, desideroso. E poi Roma è vicina. Vagabondare per le sue strade, guardare il fiume dai ponti, i palazzi dal basso in alto, i tramonti con i volteggi degli storni. E poi entrare nei teatri e ritrovare la stessa atmosfera che ricorda da quella volta famosa con la zia Silvia e Fregoli. Chissà, forse vuol fare l'attore anche lui, del resto perché no? Perché non sognare? Che bella la vita, che bella la giovinezza. Il mio sogno è questo: si alza il sipario, ci sta la sedia e ci sto io. Invece nel 1921 Zavattini torna a Luzzara dietro ai genitori che ritornano al loro albergo-ristorante. Qui a Luzzara però succedono 2 cose belle. Scopre la passione politica e scopre di non amare questo nuovo partito fascista che intanto inizia a prendere piede. Cominciai un mio antifascismo modesto, ma vero. In realtà, negli anni a venire, per puro comodo, Zavattini si iscriverà al partito fascista per continuare a lavorare. Per questa ragione, quando il fascismo si dissolve, Zà non si sente di giocare allo sport preferito dagli italiani, non salta sul carro dei vincitori quando non ci sono più rischi da correre. Fare dell'antifascismo pubblico, dichiarato nell'agosto del 44, è immorale. Io che per 20 anni ne vidi e ne capii, e quando capii non agii, e solo da un anno ho mosso la mia coscienza. E non posso oggi fare l'antifascista. Ma oltre alla politica, Zavattini scopre l'amore per Olga. Olga Berni, luzzarese come lui, che si innamora di questo ragazzone che pare impacciato, ma non lo è affatto, che pare tranquillo eppure non lo è, e che pare grosso eppure ha le mani sottili e belle, come anni dopo le descrive la sceneggiatrice Suso Cecchi d'Amico. Zavattini aveva il fisico massiccio di un contadino, con mani bellissime, lunghe, agili, che muoveva in continuazione a commento del discorso. Aveva un buffo modo di parlare e occhi azzurri e sporgenti, con i quali io sostenevo che ipnotizzasse i produttori. Quello fra Cesare Zavattini e Olga è da subito un amore totale, senza i pudori delle coppie di allora, fuori le convenzioni. Un amore forte, legato alla terra, tenace. Un amore da cui nascono Mario e Arturo, e solo 10 anni dopo il matrimonio, che viene deciso solo così, per amore, e non perché bisogna. piace ridere. E sei mezza matta proprio come me. C'è come fra di noi, c'è più di una cosa. Sposerò perché, per esempio, so che del pallone sei tifosa. Sposerò perché non mi chiedi mai il giorno che sarai mia sposa. E poi perché io so già che se litighiamo io e te non stiamo mai più di un minuto col cuore arrabbiato. Zavattini terza e azione! Terza inquadratura fissa. Convitto Maria Luigia a Parma, refettorio. Al capo della lunga tavolata, l'istitutore Cesare Zavattini scherza con i suoi alunni mentre si mangia tutti insieme la minestra. Al suo fianco, il giovane Attilio Bertolucci, Giovanni Guareschi, suo cugino Pietro Bianchi e altri ragazzi. La minestra non è un granché, meglio parlare di ciò che succede fuori dalle porte del collegio, ma anche fuori da Parma. C'è un mondo che i ragazzi vogliono raccontare in un giornalino e con il loro istitutore provano a metter giù qualche idea fra un brodo e una fetta di coppa. Certo è che è proprio divertente poter scrivere e scambiare idee con questo ragazzone di poco più grande di loro, così divertente e pieno di idee. Era straordinario e unico, e fortunatamente non classificabile. A distanza di anni, il poeta Attilio Bertolucci, padre dei registi Bernardo e Giuseppe, e uno dei migliori amici di Zavattini, se lo ricorda bene nel periodo del Maria Luigia. Erano tutti ipnotizzati da lui, e non solo figuratamente. Il vulcanico Cesare si esercita anche nell'ipnotismo e nel trasformismo. Ma qualche anno dopo sarà lui a rimanere ipnotizzato quando Attilio e Pietro Bianchi lo portano al cinema a vedere La febbre dell'oro di Charlie Chaplin. Il passo Chilkoot era la grande barriera che i cercatori dovevano superare per giungere ai giacimenti d'oro. Alcuni cadevano esausti lungo il cammino, altri si scoraggiavano e tornavano indietro, ma i coraggiosi proseguivano. Lontano, tra i ghiacci del nord, immerso nel nulla silenzioso, avanzava un solitario cercatore d'oro. Pietro Bianchi, in seguito diventato critico cinematografico, ricorda: esce dalla proiezione con gli occhi lucidi d'entusiasmo. Ma prima del cinema sono i giornali il destino di Zà. Inizia a scrivere per il Gazzettino di Parma su segnalazione del rettore del convitto. E poi Il Luccio, un giornaletto culturale insieme a Bertolucci, Bianchi e gli altri ragazzi del collegio. È il secolo XX. Quando arriva il momento di partire militare e la destinazione è Firenze, non ci vuole molto a farsi accettare dal gruppo di Solaria, quello sorto intorno alla rivista che porta questo nome e per cui scrivono da Montale a Vittorini. Qui pubblica 3 racconti. Al termine del servizio militare torna per breve tempo a Luzzara, ma oltre alla compagna ci sono 2 figli da mantenere e un padre malato. Zavattini va a cercare il suo miracolo a Milano. Zavattini quinta! Azione! Quinta inquadratura, in movimento. Zavattini è nella piazza del Duomo a Milano. Cammina placidamente, in testa l'immancabile cappello nero, indosso il paltò, sotto braccio una cartella di cuoio un po' sdrucito. Non è ricco, è un uomo in cerca di lavoro, eppure stranamente sereno, sempre disponibile a cogliere il lato ironico della vita. Intorno a lui, invece, solo gente frettolosa che va al lavoro. Ma dove vanno tutti? A cosa serve questa fretta? Vorrebbe fermare un passante e dirgli buongiorno, solo per vedere l'effetto che fa, vederlo arrestarsi stupito. Buongiorno. A chi la di buongiorno? A lei? A me? Sì. Ma lui è il meconuso? No. Ma cosa vuol dire allora con questo buongiorno? Veredì, veramente buongiorno? Ma Vasco al mar, ma guarda un po' se ti capita tra i piedi un bamba qualunque la mattina. Forse la famosa scena del buongiorno nel film Miracolo a Milano, scritto 20 anni dopo, nasce direttamente da un'esperienza di Zavattini appena giunto nella città lombarda. È il 31 marzo, non ci sono la neve e la nebbia come nella scena del film, ma un po' di freddo Zavattini lo deve sentire in questa grande metropoli dove non conosce nessuno e nessuno gli rivolge la parola. Forse un po' di calore al cuore glielo regala un incontro con un grande editore, Valentino Bompiani, che decide di stampare il suo primo libro, Parliamo un po' di me, e con cui nasce un'amicizia destinata a durare nel tempo. Ma Bompiani non è l'unico editore che conosce. C'è anche Angelo Rizzoli, per cui lavora e che convince a iniziare a pubblicare libri oltre che a rotocalchi, di cui è il correttore di bozze. Scrive per lui persino una sceneggiatura, la sua prima, per un film che non verrà mai prodotto da Rizzoli. Ma dall'esperienza nasce un secondo tentativo, questa volta con Giaci Mondaini, il padre di Sandra, con cui scrive Buoni per un giorno, che diventa Darò un milione, per la regia di Mario Camerini. L'esperienza ingolosisce Zavattini. Cesare non ha dimenticato la sensazione di beatitudine che ricevette dalla visione dell'Età dell'Oro con i suoi alunni prediletti. Un senso che anche il grande giornalista Guido Vergani ricorda molto bene. Allora, come divertimenti, devo dirti che il massimo divertimento era il cinema. Il cinema era veramente... un ragazzo che poteva permetterselo andava tutte le sere al cinema. Il cinema è popolare e non c'è parola più cara all'orecchio di Zavattini. Il senso di possibilità infinite che le immagini che scorrono sullo schermo possono dare. Si può parlare di tutto e soprattutto si può rendere un servizio alla gente, si può trasformare le cose. L'arte, io non lo so se sia eterna o provvisoria, se la forma d'arte nella quale viviamo per molti secoli ci sia connaturata come sangue, ma so che questa carica che noi abbiamo oggi è una carica di comprensione della vita. E tra breve scopriremo quanto questa carica si possa elevare all'ennesima potenza grazie a un incontro con un altro artista affamato di vita, proprio come Zavattini. Non parliamo più, a parlare non serve granché. Mangiale anche tu, le castagne arrosto con me. Hai ragione, sai, io non sarò mai come voi. Guardaci un bel film, se facciamo in tempo ci andrei. Dustin Hoffman. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati stiamo raccontando una storia neorealistica. È la storia di Cesare Zavattini e di un altro personaggio che, come lui, ha fatto la storia del neorealismo. Per questo ci prendiamo la libertà di raccontarla come farebbero loro, scena per scena. Zavattini, sesta! Azione! Sesta inquadratura, in movimento. Il palco di un teatro vuoto. Cesare Zavattini in camicia scura, cravatta e giacca di tweed arriva dalla quinta e questa volta non indossa il berretto nero. Ad attenderlo per stringergli la mano c'è un uomo con una bella testa, i capelli bianchi e ondulati. È un bel signore in doppio petto grigio con il microfono in mano e accoglie Zavattini con calore. Volevo ricordarti il nostro primo incontro fu a Milano nel 1939. 39. Sì. Ci presentò Adolfo Francia. Sì. E io ero emozionato di trovarmi fronte al grande scrittore che io stimavo ed ammiravo moltissimo. Era uscito allora il tuo libro... Parliamo sì, tanto io, di me. Io ti ho detto, si accomodi. L'uomo in doppio petto è l'altro protagonista di questo racconto neorealista. E non è un caso che l'abbiamo definito tale perché l'avrete riconosciuto, quest'uomo è Vittorio De Sica. Vittorio De Sica. L'incontro fra De Sica e Zavattini è un incontro di sensibilità simili, di uomini che vivono nel loro tempo ben consci che questo tempo sta cambiando in modo irreversibile. Quando si vedono per la prima volta è il 1939, all'alba del secondo conflitto mondiale. Di lì a poco tutto sarebbe stato sconvolto dalla guerra, dai morti, dalla distruzione. Non si poteva più tacere, non si poteva più far finta di nulla. E questo lo sanno entrambi. La necessità di dare voce alla realtà delle cose che anima il percorso di Zavattini trova un totale appoggio in De Sica, che è reduce da anni e anni trascorsi come interprete delle garbate commedie dei Telefoni Bianchi, quelle di Mario Camerini, almeno nelle sue forme più nobili e impegnate. De Sica non ne può più dei finali positivi, dei sentimentalismi, delle piccole storie d'amore che sembrano essere le uniche possibili nei film che fino ad allora ha interpretato. In Zavattini scorge una potenza narrativa unita a una rettitudine intellettuale che lo conquista. Quello che lo affascina è la capacità di Zaa di leggere le cose senza contribuire a renderle più tragiche o più belle di quello che sono. La domanda che si fanno entrambi è: perché usare personaggi, storie fittizie, quando basta guardare fuori alla finestra per trovare storie vere, reali, molto più poliedriche e immaginifiche di quello che la sola fantasia può partorire? E se poi tutto ciò è calato in una realtà così estrema, come quella della guerra e del dopoguerra, perché ripudiarla? Perché nasconderla al pubblico? Come Zavattini, Vittorio De Sica sente il bisogno di parlare per mezzo della realtà. E lo fa fino in fondo, abbandonando la sua carriera d'attore per intraprendere quella del regista. L'obiettivo mi interessava ogni giorno di più. Dire oggi che fin da quel momento io pensassi al realismo sarebbe forse presunzione, ma è verità che io avevo già intuito la possibilità di portare la macchina da presa fuori dagli stabilimenti, all'aria aperta, ovunque fosse la vita degli uomini. Scegliendo di andare dietro l'obiettivo come paladino di un nuovo genere narrativo, De Sica non rinuncia a poco. Negli anni passati si è imposto come uno dei grandi attori del cinema italiano fra le due guerre, insieme ad Amedeo Nazzari e Gino Cervi. Interprete simpatico e leggero di mille commedie, dirette da Carlo Ludovico Bragaglia, Mario Mattioli e Mario Camerini, fra i quali gli imperdibili Il Signor Max e Gli Uomini che Mascalzoni, dove si scopre anche cantante con la famosissima Parlami d'amore, Mariù. Dimmi che sei tutta per me, qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mariù. So che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu. Ma alla regia, De Sica, che esordisce con due film non troppo dissimili dalle commedie che interpretava fino a qualche tempo prima, sente presto il bisogno di cambiare rotta. E l'occasione la trova con un soggetto di Zavattini, I bambini ci guardano. La collaborazione non solo è fruttuosa, ma rivela ai due uomini gli obiettivi comuni sostenuti da caratteri affini anche se diversi. Zavattini con la sua irruenza, il suo entusiasmo, la sua carica inesauribile. De Sica con l'occhio per l'immagine e una capacità quasi magica di dirigere gli attori, soprattutto coloro che attori non sono. Gli uomini presi dalla strada che tanta parte avranno nei film che la coppia costruisce negli anni a venire. Ciao. Attento, io luccio i garzoni. Che t'ha detto mio fratello? Ha detto che il panza mi aspetta oggi, a luna. C'è un affare per voi, due coperte americane. Andate al 48 a via del Babbuino, salite al quarto piano, lì c'è una signora, c'è una dei tre, ce la trovate di sicuro. E beh? Come beh, gli porti le coperte e quella delle coltre. Signor, che volete? Ci sarebbero due coperte americane. Ma veramente non mi interessano. Quanto? 3.500. Che corridoio? 3.000. Beh, vediamo un po'. Shoe shiner significa lustra scarpe in inglese. La traduzione in dialetto è shusha, perché sono soprattutto le scarpe dei soldati americani che Pasquale e Giuseppe puliscono da mattina a sera per guadagnarsi da vivere. La loro storia si svolge senza speranza, divisa fra i loro sogni e quelli di una Roma priva di aspettative subito dopo la guerra. E per la prima volta nel 1946 una pellicola italiana prende l'Oscar per il miglior film straniero con questa motivazione. La qualità di questo film, nato palpitante di vita in una nazione devastata dalla guerra, dimostra al mondo che lo spirito creativo può trionfare sulle avversità. A Shusha, la coppia Zavattini-De Sica fa seguire un altro film dopo soli due anni. Ed è di nuovo Oscar al miglior film straniero, Ladri di biciclette. Anche la sceneggiatura di Zavattini riceve una nomination. 12.000 di fisso. Più 2.000 di straordinari, più l'assegni familiari, fanno 800 lire al giorno. 800 per 30, fa un po' il conto. Che vuoi di più? Meglio di così. E uno ci deve rinunciare. Io non ci voglio rinunciare. Capisci che bisogna ritrovarla, perché se no non se magna. Che se può fare? Bisogna una volta voltesse tutti i giorni. Perché dovremmo da ritrovare quelli là? Vidi nascere il copione di Ladri di biciclette dal tuo talento cocciuto. E fu una nascita davvero impopolare. E io sentivo che quello era il mio vero mondo e che avrei saputo esprimerlo come se lo avessi vissuto fin dall'infanzia. Non volevano che i tuoi personaggi disturbassero il quieto vivere di una collettività che aveva già dimenticato la guerra. Ricordando gli anni di Ladri di biciclette, Vittorio De Sica scrive questa lettera a Zavattini nel 1953. Con questo film la collaborazione fra i due si fa ancora più stretta, soprattutto nella condivisione della stessa visione democratica del cinema, anche se è Zavattini a teorizzarla nella maniera migliore. Un numero infinito di occhi può aspettare con qualche speranza di vedere il film che in una volta esprima tutta la verità, che significa tutto l'amore per gli altri, un film da potersi proiettare sul cielo, visibile in ogni istante da ogni parte della terra. Eppure il film non piace. Prima di tutti non piace al Vaticano. L'osservatore romano chiede addirittura che il film venga sequestrato per offese alla morale e alla religione. E poi non piace alla sinistra, che sente tradita la sua ideologia in un film dove il lavoratore non trova aiuto da parte di nessuno, tantomeno dal partito. E anche il pubblico, che alla prima presentazione al cinema di Roma fischia la pellicola. La solitudine del protagonista e di suo figlio fa male a troppi. Zavattini, De Sica, Settima! E azione! Settima inquadratura, fissa. Salle Pleyel, un salone per grandi eventi nel cuore di Parigi, accoglie questa sera il pubblico delle grandi occasioni. Fra le poltrone rosse si assiepano più di 3.000 spettatori, la crema dell'intelligenzia francese. Si è appena chiuso il pesante tendaggio che nasconde lo schermo cinematografico, dove la parola fine è appena comparsa sull'immagine conclusiva di Ladri di biciclette. E tutti sono già scattati in piedi, tutti applaudono. Fra i francesi entusiasti ci sono due italiani felici, quasi timidi, che stringono le centinaia di mani che si protendono verso di loro. Sono Vittorio De Sica e Cesare Zavattini. Ed ecco staccarsi una figura più solenne delle altre, un uomo dalla fronte spaziosa e gli occhi un po' bulbosi. È René Clair, il grande regista del Silenzio e d'Oro e Grandi Manovre, che abbraccia con calore e commozione genuina De Sica e Zavattini. È la celebrazione di un successo che di lì a poco diventerà internazionale. Destini incrociati. A Destini incrociati è il 1948 e Vittorio De Sica e Cesare Zavattini hanno appena conquistato l'Oscar per il film Ladri di biciclette. È il secondo Oscar della coppia che da qualche anno ha trovato nel lavoro insieme la formula perfetta. Noi due siamo come il cappuccino, che non si sa il latte qual è. E il caffè, ma c'è il cappuccino. Eppure, nonostante la metafora del cappuccino, le cose non sono facilissime per Zavattini e De Sica, nonostante i successi mondiali. E il perché ce lo spiega il critico cinematografico Tatti Sanguinetti. Il successo di Ladri di biciclette rischia di essere fatale a questa coppia quando lavorano a Miracolo a Milano. Col successo di Ladri di biciclette, scrive Zavattini a De Sica nel gennaio del 50, tutto è cambiato, ci siamo messi entrambi su una strada in fondo alla quale non può che essere la cattiveria ad aspettarci, l'ira, l'ipocrisia più nera e chissà quale altra punizione, perché i registi tendono a brillare da soli, tendono ad attribuirsi tutto e lo sceneggiatore per forza l'aspetto nero del cappuccino, il caffè, tende un pochettino a patire. A rimanerci male. Ma Vittorio De Sica ha troppa stima per Zavattini per giocare la parte della star e i rischi della fama non dissolvono l'amicizia e il comune impegno nell'arte dei due uomini. Anzi, si rimettono subito al lavoro. Zavattini riprende in mano un suo lavoro di qualche anno addietro pensato per i figli, Totò il Buono. Quella lì l'ho scritta per delle ragioni, direi non editoriali, è vero, l'ho scritta per delle ragioni familiari, potrei dire, perché i miei figli, è vero, tutta la famiglia, è vero, direi, no? Quei libri che pubblicavo non gli interessavano. Allora dico, aspetta, è vero, io pubblico un libro per loro proprio, perché la famiglia e i figli che ti stimassero subito, diciamo così, e non avessero davanti questi misteriosi libri, è vero, che non potevano mai, è vero, sfogliare, leggere, diciamo così. Da Totò il Buono, Zavattini tira fuori un nuovo soggetto, Miracolo a Milano, che a differenza dei precedenti successi pienamente neorealisti, vuole giocare un po' di più sull'invenzione astrusa, sulla favola, che non vuol dire esagerazione della realtà, ma semplificazione della realtà. Ma è soprattutto la ricerca della bontà che interessa Zavattini. Mi sono convinto che nel film c'è qualcosa che accomuna tutti, un desiderio di bontà e la immensa tristezza che deriva dall'essere la vita com'è, e non come dovrebbe essere. Quando esce Miracolo a Milano, da gran parte dell'establishment viene considerato un film eversivo. I protagonisti sono dei barboni e un orfanello che partono per un paese migliore e nonostante la pellicola venga premiata al Festival di Cannes, in Italia non viene capita. Quello che oggi appare incredibile è come sia possibile che ben 3 film riconosciuti in tutto il mondo come pietre miliari del cinema moderno possano essere stati tanto poco compresi dal paese che non solo li ha prodotti, ma che in qualche modo ne è stato l'incubatrice sociale. Perché i film di De Sica e Zavattini non sono altro che lo specchio fedele e pietoso di una nazione che dopo decenni di un regime mistificante e dopo anni di una guerra che ha lasciato il paese devastato, si è ritrovato nudo di fronte alla realtà e da questa ha però anche trovato la forza di riscattarsi. E solo l'immensa onestà intellettuale e l'impeto al cambiamento di Zavattini, uniti alla capacità di trasporre in immagini questo sentire che aveva De Sica, hanno fatto sì che tutto il bagaglio di esperienze e di sofferenze italiane trovasse una sua dignità nel racconto cinematografico. È il problema di un uomo che annusava la vita e voleva ridarla con il gusto di spingere qualcuno a fare qualcosa per gli altri, ma anche il gusto di intervedere che alcuni lampi di vita piccola erano carichi anche loro di una forte poesia. Con le immagini De Sica sa rendere al meglio questa poesia zavattiniana. Lui, uomo all'apparenza vincente e forte, conosce meglio di chiunque altro le debolezze e le fatiche della gente. Dopo aver realizzato quelli che vengono considerati i pilastri del cinema neorealista, insieme a Roma città aperta di Rossellini, si ritrova non più ricco, non più giovane, non più popolare di quando faceva le commedie dei telefoni bianchi. Nel contempo ha una famiglia da mantenere, anzi due. La figlia Emilia, nata dal primo matrimonio con Giuditta Rissone, e Manuel e Christian, i figli avuti dall'attrice spagnola Maria Mercadé. Inoltre, non fa mistero di essere un appassionato giocatore dalle fortune alterne. Agli inizi degli anni 50 si ritrova a cercare ancora lavoro come attore per rimettere in piedi le sue finanze dissestate e per fortuna incontra sulla sua strada il regista Alessandro Blasetti. Di condannare questa donna e all'ergastolo, a vita. Ma d'altra parte, non è questa stessa nostra legge che prescrive siano assolti i minorati psichici? Ebbene, perché non dovrebbe essere assolta una maggiorata fisica come questa formidabile creatura? Con altri tempi di Blasetti e il personaggio dell'avvocato che conia il termine maggiorata fisica, Vittorio De Sica inaugura una nuova stagione di successi non più solo alla regia, ma di nuovo come attore. Arrivano Pane, Amore e Fantasia, Il segno di Venere, Il conte Max e Il generale della Rovere, in cui darà un'interpretazione magistrale. Ma la collaborazione con Zavattini continua con la produzione di capolavori come Umberto D nel 1952 e nel 1960 La Ciociara. No, ho passato veramente la notte in bianco e sono ancora talmente emozionata che veramente non riesco a trovare le parole adatte per esprimere tutto quello che sento in questo momento. Da quando ho saputo che avevo vinto l'Oscar io veramente non ci credevo, guarda. Non ci credevo perché è la prima volta che succede nella storia del cinema che un'attrice italiana prenda un premio, un Oscar per un film italiano. Sofia Loren vince l'Oscar come migliore attrice e ancora una volta De Sica e Zavattini si confermano non solo come la coppia in grado di firmare opere di straordinario valore artistico, ma soprattutto come coloro in grado di esportare uno stile originalmente italiano in tutto il mondo. Due uomini che insieme hanno inventato un linguaggio che ha saputo diventare eterno. Ricordi che qualcuno diceva, leggendo il copione, questo non è cinema? Nessuno di costoro amava il tuo cavallo bianco di Shusha. E non volevano che il racconto finisse così tragicamente. E nemmeno volevano che il furto di una bicicletta creasse così tanto dolore. E che gli altri tuoi personaggi, Totò il Buono o il vecchio Umberto, disturbassero il quieto vivere di una collettività che aveva già dimenticato la guerra. Siamo all'ottava! E azione! Ottava inquadratura, finale. Esterno giorno. Ci sono due uomini. Colui che si trova in primo piano indossa un cappotto grigio con sotto una giacca di tweed, camicia bianca e cravatta scura. I capelli sale pepe sono ben pettinati all'indietro. Nella mano sinistra una sigaretta che si consuma. Dopo di lui, in secondo piano, un altro uomo dal fisico più massiccio, un lungo paltò abbottonato, in testa un berretto scuro. Entrambi guardano un punto imprecisato davanti a loro. Sono assorti, concentrati, tranquilli. È una delle ultime immagini di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini. Quando De Sica muore nel 1973 durante un'operazione in Francia, per Zavattini è un dolore immenso. Risolve la sofferenza con il lavoro, con i progetti che si susseguono. A 80 anni firma la regia del suo primo e unico film, La Verità. Muore 7 anni dopo, a Roma, da dove non si è mai più mosso dopo che De Sica lo ha chiamato per lavorare insieme. Nel 1953 il grande Vittorio, parlando di Zavattini e della loro grande avventura neorealista, scriveva in una lettera: «Credo che due fratelli non avrebbero potuto essere più di noi uniti e tesi allo stesso scopo». Quando la pioggia mi desta è un giorno di festa, di gioia per me, io scendo a passeggiare, sai perché? Mentre la gente si bagna, la dolce compagna puoi sempre trovare, se tu hai l'ombrello e lei non l'ha. Che piacere, nel mistero, che l'ombrello fa da garçonniere, bello e amare, dolce osare.